Mi Soundcheck numero 91 qui su Radio 24, buon pomeriggio da Gegè Telesforo. La prova del suono di oggi la dedichiamo al cuore pulsante della ritmica, forse lo strumento più amato dai bambini, quello più rumoroso, ovvero la batteria. Uno strumento composto da vari elementi, tamburi, piatti e altri strumenti a percussione disposti in modo tale che possano essere suonati da un solo musicista. Sì, infatti le origini dello strumento risalgono proprio alla seconda metà del XIX secolo negli Stati Uniti, sebbene poi i tamburi singoli abbiano radici ben più antiche, ma oggi non vogliamo parlarvi dei tam-tam primordiali, bensì della genesi della batteria, che avviene con la fusione di vari componenti percussivi durante le esibizioni bandistiche fino a formare una batteria di tamburi molto simile alle odierne. Infatti l'attuale batteria, diciamolo pure, nasce proprio per problemi di spazio. Infatti in principio lungo le strade di New Orleans, quando le marching band sfilavano in corteo, a ogni elemento dell'attuale batteria era suonato da una singola persona, cioè come nelle fanfare militari di oggi. In seguito le esibizioni si spostarono quindi dalle strade ai locali, dove era impossibile ospitare sul palco 5-6 musicisti che si dedicassero alle percussioni, quindi intanto si fuse la gran cassa con il rullante militare. Pensate che in principio la gran cassa veniva suonata proprio a calci, nel senso che il batterista proprio la prendeva a calci la pelle battente della gran cassa. Poi fu inventato il pedale per la cassa e a questa batteria primordiale vennero in seguito aggiunti i tamburi a opera dei cinesi, sì, perché ogni etnia americana presente negli Stati Uniti contribuì proprio all'evoluzione dello strumento. I cinesi importarono i tom, ovvero i tamburi di diametro più piccolo, e i turchi perfezionarono la produzione dei piatti adoperando il loro modo di fondere e martellare il rame e l'ottone. In America nasce prima del 1900 la Rogers, che era denominata la Cadillac delle batterie, poi assorbita negli anni 80 dalla casa giapponese Yamaha, e la Rogers ancora oggi è la marca i cui pezzi mantengono le più alte quotazioni tra i collezionisti. Ci sono varie case di batteria importanti, vorrei ricordare, che ne so, la Gretsch, che è forse lo strumento più utilizzato dai batteristi jazz di oggi, ma anche la Ludwig, la Sonor, come abbiamo detto la Yamaha, la Pearl, Premier, Slingerland, Tama, Mapex. In Italia abbiamo degli ottimi costruttori artigiani di batterie e oggi quindi celebriamo questo bellissimo strumento aprendo il soundcheck con il suono, lo swing, ma anche il groove di uno dei primi batteristi funambolici e pirotecnici della storia del jazz, ovvero il Big Swing Face. Questo era il soprannome che veniva dato al meraviglioso Buddy Rich, che qui ascoltiamo con la sua big band in una sua versione di Pick Up the Pieces, il cavallo di battaglia della Average White Band, quindi un batterista di swing che si diverte a groovare qui al soundcheck di Radio 24 per celebrare la batteria. Soundcheck di oggi parliamo della batteria. Questo era Buddy Rich con la sua big band in Pick Up the Pieces. Facciamo una breve pausa, torniamo subito con il soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. And the jungle brother, Celebriamo la batteria, cuore pulsante della ritmica, la celebriamo qui al soundcheck di Radio 24, addirittura James Brown, che qui abbiamo ascoltato in un suo classico intitolato Give It Up or Turn It Loose, di cuori ne portava due sul palco, perché con lui per suonare 3 ore di show completamente devoto al groove portava con sé proprio 2 campioni di ritmo come The Original Funky Drummer Clyde Stubblefield e il bravissimo Jabbo Starks. Allora parliamo della batteria, abbiamo già detto che appare intorno al 1920 nelle prime formazioni di jazz, ma la batteria si è evoluta fino ad arrivare ai giorni nostri con batterie elettroniche, o comunque il suono della batteria viene utilizzato dai DJ sotto forma di campionature o proprio con l'utilizzo di architetture ritmiche realizzate sul computer con i suoni che emulano la batteria. Ma oggi parliamo proprio della batteria, come si compone un drum set. Allora, ogni batterista ha il suo stile, ogni batterista cerca il suo suono e compone il suo drum set in base alle sue necessità, che dipendono dal genere musicale che devi affrontare, ma anche in base alle necessità fisiche. Comunque, gli elementi che servono a un batterista sono sicuramente la cassa, the bass drum, il rullante, uno o più tom tom, che sono i tamburi, quelli più piccoli, poi ci servono i timpani e poi tutta una serie di piatti che devono corredare la batteria, e ci sono vari modelli di piatti, a partire da quelli che servono proprio per l'accompagnamento tipico dello swing, ovvero il ride, il tin, poi ci sono i piatti con i quali si danno le famose spiattate, che sono il crash, lo splash, c'è cioè il china e naturalmente fondamentale il charleston o l'hi-hat, cioè i due piatti che vengono suonati azionando la meccanica con il piede sinistro. Dunque, questa è il drum set classico. Poi di solito i batteristi possono utilizzare altre percussioni per generare un suono sicuramente personale. La cosa interessante della batteria è proprio la lavorazione, cioè c'è una ricerca timbrica che viene fatta proprio attraverso la scelta del legno che viene utilizzato. Di solito le batterie sono costruite in legno, si utilizzano acero, betulla, quercia, mogano, tiglio, bubinga, noce, pioppo, faggio, bambù, addirittura l'eucalipto e in Italia anche l'ulivo, ci sono alcune batterie fatte in ulivo. Comunque il componente principe della batteria è il rullante, che può anche essere costruito in metallo, in acciaio, alluminio, ottone e rame, ma esistono anche rullanti più rari che venivano realizzati in titanio. Poi comunque più rare sono anche le batterie che intorno agli anni 70 venivano costruite in plastica, esattamente in plexiglass. La costruzione della batteria è un lavoro molto complesso, artigianale. Oggi ci sono le fabbriche, ci sono batterie industriali che infatti si possono acquistare a pochi soldi, diciamo che con 200-300 euro una batteria da studio, quella che viene regalata, la prima batteria che viene regalata ai bambini, uno se la può procurare, per poi arrivare a cifre esorbitanti a secondo della marca, il modello, il tipo di costruzione, il tipo di legno e le meccaniche che possono essere più o meno pregiate. Torniamo ad ascoltare un altro campione di groove, rifacendoci proprio al concept, al groove di James Brown, che qui viene ricordato da un altro pirotecnico batterista contemporaneo che ha fatto un po' la storia del jazz fusion degli anni 90, si chiama Dennis Chambers, qui con la partecipazione del chitarrista John Scofield. Il brano è Talking Loud and Saying Nothing. Soundcheck, il suono della musica. e stiamo celebrando la batteria qui al Soundcheck di Radio 24, meraviglioso strumento indispensabile per la creazione delle nostre architetture ritmiche, strumento difficile da suonare e anche difficile da realizzare. Abbiamo capito quanto è importante la scelta del materiale, del tipo di legno e poi anche la scelta del tipo di realizzazione, sì, perché la differenza di realizzazione è anche delle conseguenze sul suono del tamburo stesso. Quando si usano dei fusti in legno multistrato, vengono piegati a caldo, disposti in forme cilindriche che servono poi a realizzare così il tamburo come lo conosciamo. A secondo dello spessore del legname e la lunghezza del fusto, poi abbiamo delle conseguenze importanti sul tipo di suono. Una volta realizzato il tamburo, bisogna applicare con dei tiranti le pelli della batteria. Esistono vari tipi di pelli: c'è la pelle battente, quella che viene percossa dalla batteria, e la pelle risonante, quella applicata sotto al tamburo, che di solito è più leggera e liscia. La pelle invece battente, quella più usata, ha una sabbiatura che serve proprio per creare un suono più caldo, è più facile da accordare ed è anche utilizzata molto spesso, soprattutto dai batteristi di jazz, quando suonano le spazzole, perché la sabbiatura crea quel suono tipico dello swing. E quindi esistono pelli idrauliche, pelli naturali, pelli a rinforzo centrale, ed esistono vari tipi di bacchette con la punta in legno, la punta in nylon, di vari calibri e spessori. Insomma, alla fine la batteria corredata con tutti i piatti l'abbiamo a nostra disposizione. Il problema è che poi quando si va per festival jazz, si va a fare i concerti, non tutti hanno la possibilità di avere il proprio service a carico, e quindi si è costretti a suonare batterie che magari sono state sotto al sole o hanno affrontato l'umidità della notte, e il batterista deve avere l'abilità di accordare quasi come se fosse un carrozziere e di mettere a punto lo strumento per il concerto da affrontare a secondo del genere. Ci siamo, i batteristi studiano vari metodi, devono studiare tantissimo la tecnica, devono avere il senso dello swing e il senso del groove, e ascoltare anche l'evoluzione della batteria, che è stata amplificata dal lavoro dei disc jockey, che utilizzando loop sul computer e batterie elettroniche hanno molto spesso dato vita anche a ritmiche complesse che qui ci vengono riproposte da batteristi in carne e ossa, come il caso di Mark Kohlenburg, batterista degli Experiment di Robert Glasper, specialista di una tecnica chiamata jungle, che qui ci viene proposta in un brano dal titolo Let It Ride con la voce di Norah Jones. Questo appuntamento del Soundcheck di Radio 24 dedicato alla batteria con il sound di Herbie Hancock, che un bel giorno in studio di registrazione decide di realizzare questo brano utilizzando le ritmiche elettroniche create al momento dal disc jockey Rob Swift e un campione di batteria di tutti i tempi, il maestro Jack DeJohnette, affiancato dal bassista Bill Oswell. Quindi con Herbie Hancock non mi resta che salutarvi, augurarvi buona giornata, buona musica e tanto groove da GG Telesforo. Restate in contatto con Radio 24. Sound check. Il suono della musica.